si spostarono nell'ira. Cantavo diva dei pelle rossa americani, le geste erotiche di scuopelle di luna, le penne stilografiche con l'inchiostro blu, la barba col rasoio elettrico non la faccio più. Questo era il live registrato a casa tua, Cucuru Cucù, The Blue Beaters, cover di Battiato registrato un anno fa, e tra poco parleremo anche di Blue Beaters che abbiamo ospitato al Bergamo Reggae Sunfest di un paio di anni fa, e parleremo proprio del Bergamo Reggae Sunfest. Ma intanto Gialloman, ospite di questa settimana in collaborazione con Red, Golden, Green, lo spazio in cui tutte le settimane ospitiamo un artista della label romana Red Golden Green Movement. Bless up Federico Virtus, bless up Gialloman per la disponibilità. Questa è l'intervista. Yes people, questa sera nello spazio di Port Royal in collaborazione con Red Golden Green Label intervistiamo e presentiamo il nuovo singolo di Gialloman e Giras Sign. Le strade dei due artisti si incrociano nel 2016 a Kingston in Giamaica, dove Gialloman è impegnato a registrare i nuovi riddim con la Firehouse Crew. Incontra Giras e la squadra di Liberty Warrior proprio nel luogo in cui alloggiava. Nasce una forte connessione tanto da spingerlo ad unirsi alla loro missione, dipingere un quadro rasta motivazionale insieme ai ragazzi del posto su un grande muro all'interno di Help Jamaica Center, un doposcuola a Casa Va Play. Come si può vedere anche dal video musicale. L'idea della canzone è nata durante una sessione di registrazione qualche tempo dopo, discutendo di un'esperienza comune, un segno, un arcobaleno di straordinaria bellezza visto da Gialloman durante una visita alle cascate Blue Nile Springs in Etiopia ed uno visto da Giras durante una passeggiata in una foresta in Ungheria con il suo amico Farish Shanti di Liberty Warrior, dopo il suo primo viaggio in Giamaica. L'arcobaleno diventa il simbolo dell'importanza della consapevolezza in questi tempi cruciali, ma anche dell'unità e dello stare insieme, infondendo pace e positività negli animi. Il singolo sarà presente in entrambi i prossimi lavori dei due artisti, Boomfire, il titolo dell'opera di Gialloman, e Book of Noah, quello di Giras, un concept album di 7 canzoni che rappresentano le 7 leggi di Noè e allo stesso tempo i 7 chakra della tradizione vedica. Un ringraziamento come sempre a Red Golden Green e anche a Ilmar Hilly Keating e all'intera Help Jamaica team. Giras, this you wanna see us. Real life story. I see a sign, a rainbow in the sky, green, gold and light, showing the way to I and I see a sign, so beautiful and divine. What a melt into the sky, what a blessing to I. From Addis Ababa, charging on the King's Highway, up to the Blue Nile, George Negusi and I, walking on the ancient stone, blazing cloud waterfall. I see a sign, a rainbow in the sky, green, gold and lights, showing the way to I and I. I see a sign, so beautiful and divine, what a melt into the sky, what a blessing to I. Up in the hills, when me return from me first trip I had, I walking in the forest, leave it to worry of a rich auntie and I. Coming from the woods to a meadow, getting out in a delight from the shadow. We did a look on the sky and we saw a vertical red, gold and green rainbow. I see a sign, a rainbow in the sky, green, gold and lights, showing the way to I and I. I see a sign, so beautiful and divine, what a melt into the sky, what a blessing to I. Jaja children, open up your heart and mind, to draw the curtains and look behind, to be able to read between the lines, to overstand the signs that we're receiving more and more in these times. Crucial messages sent by life, the only way forward for humankind. That's right. On this journey, all we need is love. Questa era Sign, il nuovo singolo di Jaloman e G-Ras per Red, Gold and Green Label. E adesso cominciamo con l'intervista. E come sempre la prima domanda è: come nasce la tua collaborazione con Red, Gold and Green Label? Ciao a tutti, un saluto agli amici di Port Royal. Ho conosciuto Red, Gold and Green tramite Virtus nel 2018. Ci siamo incontrati personalmente a Campovolo Reggae a Reggio Emilia, abbiamo suonato assieme sullo stesso palco, e, però ecco, avevo conosciuto anche prima le sue produzioni, quindi ci eravamo scambiati dei messaggi su Facebook, e, quindi nasce dal mio apprezzamento per quello che fa, quello che produce, la sua musica, questo incontro. E l'anno scorso avevo finito di registrare l'album nuovo e quindi gliel'ho inviato e a lui è piaciuto e quindi abbiamo trovato il modo di pubblicarlo assieme. Quali sono le tue fonti di ispirazione? Beh, le fonti di ispirazione sono molteplici. Sicuramente stare in mezzo alla natura è una delle ricariche più potenti che conosco. E vedere la creazione quanto è meravigliosa. Rastafari, Haile Selassie, e tutto quello che ha scritto, i suoi messaggi, i suoi consigli, è un leader che ha lasciato un'eredità importante per il suo popolo, diciamo, e chi vuole imparare. Musicalmente, beh, Dennis Brown mi piace, è sempre piaciuto tantissimo. Uroy, assolutamente, una delle primissime fonti di ispirazione. Garnet Silk, ti potrei dire, ovviamente The Sizzla, Luciano. Mi piace tantissimo il gospel, sono stato a New Orleans, avuto modo, insomma, di incontrare delle persone veramente generose con cui ho potuto cantare e imparare dei classici gospel. È stata un'esperienza molto bella, e quindi è una musica, collaboro con un coro gospel qua di Venezia, e insomma mi piace moltissimo la musica corale, ecco, ti potrei dire tutti i tri giamaicani, i Gladiators, i Mighty Diamonds, Itas, i Meditations, bellissimi, ti dico, li ho visti quasi tutti, gli Itas non li ho mai visto purtroppo. Però ecco, le armonie dei tri vocali, gli Wailers chiaramente, l'uso del falsetto leggero come sanno fare loro, mi piace molto, ecco, e comunque è una cosa che ritrovo anche nelle armonie delle chiese americane gospel, ma in tutto il mondo in realtà. Sicuramente ispirazione Africa, perché sono stato in Africa due volte, in Etiopia e in Senegal, e sento che proprio, potrei dire, la danza, ecco, la danza è molto collegata alla musica, e vedere una persona ballare mi ispira anche a me, le note da suonare, i ritmi da suonare. Quindi è un tutt'uno, la musica succede per mille ispirazioni, mille ingredienti, quelli che sono davanti ai tuoi occhi, insomma, nel momento presente. Rastafari, bless. A chi ti ispiri, a chi vorresti somigliare, o meglio, chi vorresti diventare? Cosa vuoi diventare? Io voglio essere una persona che ispira libertà, che difende la creatività, la libertà di espressione. E voglio essere una parte della comunità che è tutto questo grande mondo. E in particolare, ecco, mi piace, io ho scelto la musica, la creatività, quindi mi piacerebbe continuare a essere parte di una comunità di gente creativa. Posso dirti che è stato bello lavorare al singolo Science, perché sono stato in contatto anche con un grafico molto bravo, Farek, che ha una linea di abbigliamento, Liberty Warrior, e quindi ci siamo scambiati anche con lui consigli per il video, lui ha fatto le grafiche, con Giras che ha registrato la musica, ha registrato le voci, scusa, ci siamo sentiti anche per registrare il video, le scene del video, e con i musicisti miei siamo stati in contatto, come dicevo, quindi insomma, ecco, mi piace e voglio continuare a essere un elemento creativo all'interno di questa comunità di creativi. Adesso ci prendiamo qualche minuto per ascoltare Ja Riddim, un featuring di Gialloman e Little Briggy, il figlio di Brigadier Jerry, mixato da Paolo Baldini, che ha curato anche il video. Questa è Ja Riddim. Yes! For the flick of my wrist, you make a jump and twist, original style like this. Take it away. Life is eternal. Poop on a go, a dem burial. Me no friend them, cause them a genial. Strictly urban, the boys in a me corner. Yes, me love it, I tell. In every garden we want it legal. Keep them in a ragga royal. Good over evil, life over death. Remember life is eternal. I feel charity in a dish of Irish. Bring stone and fire out of this sound station. I feel charity in a dish of Irish. Bring stone and fire, fire. Jaridi. I feel Jaridi. Giallo. And a good meditation. Pirata e Radio. Tutti i mercoledì, Port Royal Time, Fire from Babylon in session. Giallo Man, Red Golden Green Label. Watch out and leave it with them. Bowler Lindley warriors, warriors, Chuban warriors. But still, we there again. Now tell you what, I'm naturally the mystic, so the vibes sound to flow. This is the Kirby alongside Giallo. And everywhere we go, positivity and fish show. Cool like the breeze, and so we stay down. And it's a warrior. Sensation. I feel Jaridi. I feel my heart and soul with a good meditation. With a good meditation. So me no join them drama. King Rastafari am me shield am me armor. Protector you and I when the times get harder. Guide you and I, we no fear no other. Me no join them drama. Hai un sogno nel cassetto riguardo a un featuring con qualche artista italiano o giamaicano? Vorrei realizzare un featuring con Lutan Faya. È un artista che mi è sempre piaciuto e ha una consistenza in quello che dice e produce, è sempre molto conscious. Mi piace molto, insomma. Come vedi la scena reggae in questo periodo in cui siamo stati un po' lontani dai palchi, lontani dai live, lontani dalla Massive? Come hai passato tu questo ultimo anno un po' complicato per tutti? La scena reggae nazionale è in evoluzione e ho visto che ha cercato di tenersi attiva con tutta una serie di serate in streaming, come dicevi. Alcune serate molto ben riuscite per la qualità audio e video, quindi un'esperienza molto piacevole. Chiaramente niente ha a che fare con la dimensione fisica, come dicevamo, di sentire la musica come va sentita, con i bassi e i volumi giusti. E il contatto e tutto, insomma, la dimensione umana. Cosa sto facendo in questo periodo? Mi sono concentrato molto e dedicato molto a fare il disco nuovo, l'album nuovo, quindi da scrivere, registrare, arrangiare, mixare, collaborare, quindi tenere i contatti con tutte le persone coinvolte, che ringrazio, sono tantissimi quelli che hanno reso possibile fare realizzare, insomma, questo disco, progetto Bonfire. Siamo riusciti comunque a provare con la band, quindi per un bel po' di mesi, insomma, ci siamo trovati e ci stiamo preparando quindi per queste nuove date. In questo periodo di pausa dall'attività live sono riuscito comunque anche a pubblicare dei nuovi brani. L'anno scorso, 2020, ho pubblicato due singoli con relativo video. E uno è Jah Rhythm con Paolo Baldini e Brigadier, e il figlio di Brigadier Jerry, scusate, che si chiama Little Briggy. E un altro è Simple, che è una canzone che parla di questo periodo di pandemia, di mantenere le distanze ma con un po' di leggerezza. E quindi è stato anche il momento di concludere dei progetti che erano iniziati l'anno prima, qualche anno prima, e portarli a completamento. Sembra ci stiamo lasciando un po' tutto alle spalle, anche se ancora molto lentamente, ma a breve, insomma, dovremmo riuscire a ripartire come era una volta. Come ti immagini la ripartenza? Beh, la ripartenza me la immagino, hai presente Carnevale di Rio, folle oceaniche. Io penso che tutti abbiamo voglia di uscire e finalmente fare quello che non abbiamo potuto fare per un bel po' di tempo. Quindi mi immagino che la voglia della gente di far festa, di celebrare la vita, di celebrare le belle cose della vita, sì, si è aumentata e si sia ancora più voglia. Quindi mi immagino una ripartenza sprint e mi immagino che noi saremo carichissimi e con un sacco di voglia di portare nuova musica, nuovi messaggi, e stare assieme, collettività, libertà, unità, rispetto. Rastafari. Un saluto finale e un grazie a Port Royal per avermi ospitato. Ci vediamo presto. Noi siamo pronti a portare dal vivo le canzoni del nuovo album Bonfire. E quindi a tutti quelli che amano la mia musica, ci vediamo presto sui palchi, noi ci saremo. Quindi One Love, Reggae Music parla di One Love, stare assieme, condivisione. Quindi un grande rispetto e un saluto, a presto. Rastafari. Big up. Ringraziando Gialloman per l'intervista e come sempre Red Golden Green Label per la collaborazione, andiamo a sentire Sweet Aroma feat. Rasai, un giovane talento giamaicano registrato a Kingston con la Firehouse Crew nello studio di Gussie Clark. Questa è Sweet Aroma, Gialloman e Rasai. Here comes the man called Rastai. The bad guy is yellow. Are we that good, good Cali weed? Solo al comincio, Port Royal, tutti i mercoledì, Pirata e Web Radio. Cominciamo a familiarizzare col nuovo nome. Grazie a Virtus. Grazie a Gialloman. Tra un pochetto, Beastie Mix Day, Positive Vibration, la seconda parte. Yes, zero para massive. Link up that connection, music, my liberty, my meditation. Jah my guide, my protection, protect me from the pagan. Them teach death and pollution, cultivation the only solution. Jah shield us up out of the system and burn down illusion. The one I need, sweet aroma of the best ganja weed. My good brethren, bring it for me. Pass it over to Shunt and Fayaki. Stop your fighting. I've got a special love for this Cali weed. Reserve a place in my heart for thee. Don't bring the wild, go wild for my mind, let loose all my thoughts. Knew it was love from the very first part. They could never ever tear us apart. Such yellow coffee is a part. All the sweet aroma of the best ganja weed. My good brethren, bring it for me. Pass it over to Shunt and Fayaki. Stop your fighting. Jalo, I and I, I and I, I and I. karma, you reap what you sow. Bigger selector in the dance floor. Cut the rhythm, cut the version. Take it from the star when we call up, pull up all the sweet aroma of the best ganja weed. My good virgin, bring it for me. Pass it over to Shumpen Fayati. Stop your fighting. Cominciamo da dove avevamo interrotto settimana scorsa. Beastie, Zero Parasound. Ai controlli, Positive Vibration, Mixtape. Speciale per Port Royal, tutti i mercoledì dalle 21 alle 23. Ringraziamo ancora Gialloman e Red Golden Green Moon per la collaborazione. Settimana prossima ospiteremo Ranking Delgado per la presentazione del suo ultimo album appena uscito in collaborazione con Astar Bene. Da qui al 16 giugno, ultima puntata di questa stagione di Port Royal, spiegheremo anche le Reggae Ragga Roots Band e soprattutto con molto piacere e con grande onore Martina Caironi, l'atleta paralimpica più veloce del mondo. E parlo in bocca a lui per le Olimpiadi di Tokyo. On the international scene, whenever time a yacht flight come in, they take the god dogs and search. A proposito delle cose belle di cui parlava Gialloman, no? If they're not looking for money, not looking for the bees to make the honey, then what you think they're looking for? What the weed? Adesso ci sentiamo un po' Beastie ai controlli. Poi facciamo l'elenco dei prossimi appuntamenti dove potete trovare Fire Pong Buddy in session nella vita reale. Basta con sta radio, basta con queste serate virtuali, no? Carnevale di Rio, you know. Get locked, lock up for Rasta. Jah Un abbraccio a Martina che ci sta sentendo. Bless up yourself. Dai Satiscia, dai Giulia. Baci alla regia, ovviamente a casa. E mo si spostano il coprifuoco a mezzanotte e non scappate. Tutti insieme, tutti in session, tutti mercoledì. Port Royal, Fire from Babylon. And you will see that we can live without the weed. When we say just the weed, we mean the good skunk weed. The good indica weed. Can't make a last can breed. Well, it's not only in a Jamaica, but it's this world all over. Why? Why you think so much people selling weed? You take a look in California, Texas or Arizona, Mexico or even Minnesota. Well, every youth man for a corner, even sometimes the daughter. Well, everyone a try something to achieve. When them say, then I left the weed. The good skunk weed. The good indica weed. We can't let the Alaskan breathe. can do, it can cut through your heart like a knife. So don't you play with my love. Settimana prossima avremo anche un'intervista con presidente e o vicepresidente dell'associazione culturale Bergamo Reggae. Quest'anno torna il Bergamo Reggae Sun Fest, la domenica si farà il roll call. Chi vuole venire a Bergamo a suonare, benvenuto. E a tal proposito, forza la magica dea che ha appena pareggiato, dai via Malinowski. Tanto lo so che tutti i fratelli bergamaschi si scaricheranno il podcast domani. Comunque forza magica dea. You loving me, me loving you, that's the way it ought to be. Like birds of a feather, we'll always stick together. Like sand to a letter, our love will last forever. But I'm afraid to make commitment, cause I don't wanna be left with a broken heart. Wanna be loved, and I wanna be loved by someone, but I'm afraid of being hurt. You think some things are bothering me? I know what love can do, it can cut through your heart like a knife. So don't you play with my love, I've warned you a million times. I need 100%. KGB, neither the CIA. stars when you think it's a peace and a safety. Then a sudden destruction, and there must be a reaction. The result is destruction. Now no need to be looking so cold. A Rasta man cannot be bought nor sold. Rasta man, no work with the DEA. No way, no Scotland Yard KGB. Bless up Satisha, massiccia number one, con tutte le linee che conosci, con tutte le serate che te fai, the best you ever, davvero la grinza. Bless up. No Scotland Yard KGB, neither the CIA. Now they will lower you into doing crime. E a proposito, facciamo un attimo il recall delle serate, almeno degli appuntamenti di questa settimana. Domani dalle 18 mi trovate insieme al mio fratello Mino DJ Priest, Priest Music, nello splendido giardino dello Zoo Bar, ogni primo e terzo giovedì del mese, una cosa chiamata Chill Island, organizzata da DJ Priest, Priest Music, e l'altro giovedì ci stiamo noi. Sabato dalle 11 fino a ora di pranzo al Bottaccio, Anzio Colonia, una cosa chiamata acustica. Tavoli Mini Mac Sound System, Laie, Rolling Lion. Direttamente da Bergamo, eh? Clinio alla chitarra, al sax, a quello che gira di suonare sto sabato. Il maestro Marco alla fisarmonica, alla voce. Ci sarà da divertirsi. Coprifuoco spostato. Ce ne andiamo tutti a Anzio. E nella pausa, prima di pranzo, tutti armari. E domenica trasfertone a Perugia, sempre dalle 11 alle 19, anche a Solare, che se volete mandiamo l'indirizzo, ospiti dei fratelli Saint Roots, Perugia Massive, Rude Toto, Manali Sound, Living Fire Sound, Fire Upon Babylon, Full Crew in Session. In realtà è Full Crew perché Ilario resta a casa, ma viene Satisha, appunto. E dopo questa seconda parte del Positive Vibration Mixtape fatto da Beastie, More Fire, Zero Parasound, partirà proprio Ilario Siletta, tra un pochetto Port Royal, tutti i mercoledì Pirata e Web Radio. Yeah. settimana scorsa non posso fare a meno di salutare tutta la Viterbo Massive, i compari The Beastie, Uva e Brick, e soprattutto la Canepina Massive, che non se lo scordavo mai, DJ, anzi Osh Selecta, che questa settimana non ha fatto la selezione. Se consoliamo con Beastie, abbiamo comunque la nostra quota della duscia. Ma ricordiamo sempre che Osh è Original Canepina Boss, insieme a Brick, per carità. Anzi, Brick è l'Original Boss, Osh, Original Don. Carry Jah love, well, now we travel Jah love. confusion, more frustration. Just the judgment of the ghettos, you know. Babylon them only build and destroy. By them hands so many of them only build and destroy. I and I stand with Rastafari. Them only build and destroy. By them hands so many of them only build and destroy. I and I stand. Without a home and living outside in the streets in the cold, or living in the without no boot to eat. I pray for you to get to you them on the street. Cause Mr. Big him love fi give him long speech, showing no care for all the hunger in the street. And through this operation we stay humble and meek. Cause we know say that them love could never be real. But Bill and them only bill and destroy. By them hands many have fallen, they only bill and destroy. I and I stand with Rastafari. They only build and destroy. By them hands many have fallen, they only build and destroy. I and I stand with Rastafari. I see my people struggling down in the ghetto with the money ration and there's plenty frustration. Some in the city feeling hot and it's still not getting easy. No, no, no, no, no, no. Where's the help for unfortunate people? Many are suffer, many weak and many feeble. Many things are getting built but still so many crumble. What's going hey, on? So much, Lord, me na oh, Lord, me na oh, oh, them love people and this time so much, Lord. Prosecute the farmer and let him wife and them kids them fi suffer and them just can't provide nothing better. Like we don't fi burn from now until the morning, make we light up it dumb. Babylon is falling, but we not go put it down. Let them keep calling till judgment come. What about them beer and them rum that they are promoting till we drunk and tumble down? This cigarette and smoking give you cancer in your lung. This is not a joking, you fi put them down. And then we say, I wonder why them fighting marijuana. I clout the herman and I prosecute the farmer and left him wife and them kids them fi suffer. Still Rasta now bow to them pressure. What about the laws and implement? We kill out the sense of meaning, them would have spent every cent. Them now want the youth and meaning fi get intelligent. But youth and youth and sense of meaning make the best garment. Can make your shoes, can make your socks, can even make your pants stand. Win up your ability and excess amount of strength. That is what I mean, exactly what I meant. Where they might go do, we kill out the end. Cause it was found in Solomon's grave. Watch this jam and so wise man smoke it, don't hide it in no cave. No, give the Rasta man his privilege. Oh Lord, I say, can't you see it's our religious sacrilege? That's why I wonder. Morning, I didn't know what see life. Life is not about material things, money, I'm linging and ting, you know. Nah, man. A million stars long as a junior boy, so I ask, man. You seeks of only vanity and no love for yeah, yeah, that. Humanity shall fade away. Fade away. Fade away, do you hear what I say? You seeks of only vanity and no love for humanity shall yo. Fade away. What do I watch out? Yo. Fade away. Yo, hey, yo. Me now I'm no right, me now I'm no gold, me now I'm no diamond pa me neck. Just a singer, we keep on following the righteous steps. From me know the Almighty, my guide and protect. You stand contact with the devil, will you go fry next? They give thanks and praise every day to the highest. You want the finer things in life? No, you want the finest. More food in your belly than it can never digest. Often remember that life is priceless. And so me sing, the rich are getting richer every day. Hey, hey, and the little that the poor man got, it shall be taken away. Hey, yo, yo. Same thing I gone all the way from Stockton to J. Hey, you too vain, then you surely fade away. Junior, what you say? You seek some only vanity and no love. Yeah, yeah, that. For humanity shall fade no away. No love, yo. No fade love. Fade away. Yo, hey, they go so people material. I'm a living fire. Most danger. When me burn it off, knock it out, give me a reload. Weed man from Senti, always have it plenty. 24/7 black pearl coach, you never empty. It make me pants, it make me shirt, it make me shoes. When me boil me tea in the morning, I eat me use. You know, said this, I wanna make this 7 o'clock news. Babylon face, I get bruised. Yo, go and plant. I'm more marijuana we want. Now you been given, go and chant. At the highest grade. Vogliamo dilungarci troppo questa sera, visto che sarà l'ultima puntata che facciamo su Spirit Web Radio. Forse ringraziando, forse no. Cominciamo. I love you, Selecta. Bless up. Even if I finance a mess with the farm, you will find say love will share what it have. Xavier, I listen, I see I Almighty God. We need more joy, not sorrow, connect. I find it's the feeling that you get and reflect. Oh, it is a level when a balance takes it. When a corporation takes it. Nelle prossime settimane sentiremo il nuovo mixtape di Pisti insieme a tanti altri mix. Siamo quasi a fine stagione. Le cose si accumulano. Bless up ancora Beastie, Zero Parasound, bella la Viterbo Massus, bella il Canepina Don a casa, Osh. Original root of King David, crown him the king of all kings. For he is exalted high upon the wings of the wind. For he is in the valley of the shadows of him who calls us to win. So I and I chant on Babylon and heal him forever. 72 nations bow down in recognition of the orb and the scepter. And the Lamaridian balancing swing. For he is prophetic and fulfillment, scripture, word until, yeah. And this is see I weather the storm, weather the storm. philosophy and joke on. And this is not saying I weather the storm, weather the storm. Persevere and joke on. Yeah. Inimitable dignity and state. To sing out with an hydrina song, to introspect from humane reasons. After all is said and all is done, same I want, same world reaction to hate and to love, same I want. Make them see it when the lion of them fly up in a dove, seeking balance. Same ayahuana. Yes, ayahuana. There's a natural mystic in the earth, that's what they really don't know. Spiritual uprising in the people with a burning glow. Confident in the victory over evil in the summer. Africa redemption. After all is said and all is done, same I want, same world reaction to hate and to love, same I want. Make them see it when the lion of them fly up in a dove, seeking balance. Same I want. Salutation to all the world nation. Failure fear overstand, seem on the brink of devastation. World need redemption, a sound mediation. Medication, mediation. We bring more balance, stance, unrest in all the lands. Before nuclear pretense was nuclear aspiration. The root of the thought as a method of deterrence, but with adverse results that it encourage all the strong. And the positive and the negative and the neutral march along. And the one thread of humanity ran through everyone. World needs some conscience to be fair to woman. Just watch your family and regard them as one. Same I wanna. Same I wanna. Same I wanna. Oppressing the poor, we can't take it no more. I am sure that unity will bring us back to the core. Like before, when we were one, like the sea and the shore. What is yours is not for me, I got my own to adore. Where's the love in the tone? Where's the joy in the throne? You're a king, where's the crown? Every word carries sound. You want to see the world, watch our nation play. Little boy and girl, what diplomacy say. Look out, 70,000 gymnasts in a symmetrical set. Let's encourage youth been working on their identity. Like a jumping on the flow of the ocean. Stay this way, this thing has one. Seeking. Yes, Rasta. All them black people that belong to Africa. So I said, we're going to keep the giddy on the hot. Aile! Yeah. Oh. Hey. Calangola. Calangola. Up on my African Gola. Calangola. Calangola. Calangola. Up on Shamalang. Gola. Calangola. Me burn the fire up from Babylon. Nah take no chat from Babylon. Cause a youth corrupt, the ghetto youths. We do no wicked duck, do no Babylon. When me walk, I trample down Babylon. Talk and ride down Babylon. Who know why we are there with your clans and plans. Won't come trapping the man. Who no think, who no can come take Mama Africa from me again. No, who no can come take Mama Africa from we again. Who no think, who no can come take Mama Africa from we again. No, who no can come take Mama Africa from we again. and your bang down a Lebanon. Pick yourself and a blame Afghanistan. We do no tricks and cons, implement a plan. Then you go dig down Saddam. We see you a draw nearer and nearer. But the Isle Mama got na go share ya. Oh, me nah get scared. We defend the square. Oh, Pasha Shamalongale, you know. Angola, from Africa, from me again. Who no think who no can come take? Mama Africa, from we again. Jah Books original version. Sembrava quella nuova di Jesse Royal, che lo fa uguale, ma è quella originale. Ilario Pondi Control, tavoli Pondi Mike, questo è Port Royal, ultima settimana su Pirate Web Radio. La settimana prossima ci trovate su Pirate Web Radio, sempre Zen FM. Ma sammari via tutto quello che è uno. I get three Peter touch, two Bob Marley, and the little berry sound sweet. You no can come take Mama Africa from we again. Who no think you no can come take Mama Africa from we again. No, who no can come take Mama Africa from we again. Who no think you no can come take Mama Africa from we again. Seleziona. Approfitto anche per salutare la mia nipotina Daniela, il mio nipotino Albert, che finalmente sono riuscito a schiacciare play. Godete questa bella trasmissione, raga. Un bacione. Spend time to do me thing fine, you know. When me alive, I'm stand by you. woman is someone to feel. L'amico na man. Me a big up you girl, woman you my doctor when things a go bad. Girl you relax me stress and to keep you body fit me go do me. Frontline. Do it proper, don't be shy. Love is a gift, it's your nature provide. Let me give you some flavors. Eppure qua impegno concreto, quando si potrà fai a Bombabilone la man a Roma, you know. Gonna be the house of love tonight. Get some love, ooh. House of love tonight. Sell out my integrity just for kill one another. Living at the end of time and crossing the border. Trying guns on my brother, no, no. There is one who is worthy, who I give my praise to. He is the one that will see me through, yeah. Every day them self-arise upon them tell me if you fight. Shall we have even today? Yo, nah man, Massey, I triple this. Come link me. Working on this Monday, looking like a Sunday, ready for the cheer. There's no place like JA, like I said. Me cup, I leave, me grab, I reach the cockpit. How can I know what's coming on after the first kick? The smell of leaving alone, down you run. She wanna hold a vibe in a Kingston town, yeah. Me only then I go be stuck and static. No me da go west, no more time back in a Kingston. Chaffee go and roll a vibe. No more than Pantries, Brucey's, we stay alive. I'm on Boulder, you cannot stop me. Me send a scam and no king along the road. You cannot trick me, what up people? What up now man? I'm just chilling on the block, what a grand man. I got the leaf from Jaja locking on my palm, man. Life is such a storm, we're just chilling in the calm. In this cold dark world, we're just living where we're calm. Holding firm as if chilling is the norm. But we also, when we're ready, still we leave it till I'm on. Thoughts are with a medley when we're speaking to the law. And some me wake up and I wanna do what I wanna do. And we come here for chill. Wake up and I wanna do. Nah man, my friend, my artist Massi and Trifle, chill out. My friend and my artist, grazie a Bergamo Reggae. La prima volta in Italia l'abbiamo ospitato al festival gratuito. Quest'anno torna dopo un anno di stop. Dal 24 al 27 giugno. And every single month of the year is like. Semana prossima ne parleremo meglio. Qualcuno del come me fa parte dell'associazione, ma almeno all'accento bergamasco. No, ma canta in mano con gli auguri. Beauty surround me, such a wonderful place. A Monday never reaches like a Sunday for days. E anzi chiedo alla regia di aggiornarmi sul risultato della magia dea. And we call me up and chill. Wake up and I wanna do what I wanna do. When I'm gonna do all I do. Monday is chill, Tuesday is chill, Wednesday is chill, Sunday we chill. Then I got bleed when me one puff and bill. Chill out and chill out. Artista che speriamo di portarvi. Che voce, Mo Calamity, Frontline. We on a deadline, we can be blind to much iniquity. We have to write another line of history, of history. Of history. Brividi. What are you looking for? We have already lost the race. What are you looking for? We've got everything we need. What are you doing now? Stay, stay on the front line. Stay on the front line. We're on a deadline, we can be blind to much iniquity. We have to write another line of history, of history, of history. Bring the peace in, the justice for I am the instant matter. Set up a point to the convictions, them living by illusion. Make us look like a fools. Don't let them put their rules to them, nothing to prove. We on a deadline, we can be blind to much iniquity. We have to write another line of history, of history, of history. Come now with your comedy chops. Girl, people not to suffer like this. Give it up. see nothing for laugh about. Don't come tell me for laugh. What if I should ever talk about? So I'll do a thing for put off. Comedian, me not fight against the thing, but suffering also mixed to an offering. So if you crack your best joke and you see me not laugh, the system bust me head and it has spin. And hear it hard, it hard, it hard, it hard. A device where you come out a yard. How me hear it hard, it hard, it hard, it hard. Same thing when me touch over brand. Everything I raise me not lie. I wait for a miracle to drop out the sky. I be a hungry tears me see a drop out the eye. I go supermarket have to watch out your buy. Give it up! No need to mention the bills there. Poor people say that it a kill them. Prescription we can't feel them. Me still a drink and all me meals them. All me hear it hard, it hard, it hard, it hard. Device where you come out a yard. All me hear it hard, it hard, it hard, it hard. Same thing when me touch over broad. Before it get better, get worse. The system empty me while it's gone with me girl purse. This is make it for the Christian curse. All me see a more death, more funeral and more hearse. Me now go give up and make it stress me. Me can't make the poor my light to sketch me. Me ask Father God for go and bless me. Give me the strength. Give it up. And me say it hard, it hard, it hard, it hard. Device where you come out a yard. And hear it hard, it hard, it hard, it hard. Same thing when me touch over broad. And hear it hard, it hard, it hard, it hard. Device where you come out a yard. And hear it hard, it hard, it hard, it hard. Same thing when me touch over broad. Give it up. Me no see nothing for laugh but don't come tell me for laugh. What if I should ever talk about? So I'll joke thing fi put off. Comedian me not fight against the thing but suffering and also mixed to me. We all have a role. We all have a way. I feel not yourself, then your path will appear. Me a moment so we all have a road. We all have a way. Yeah, yeah, yeah. Feel something strong by the little that you do every day. In this system, you gotta keep your focus. Streets are full of locusts. Reach and try to choke us. Teachers hocus pocus. Vials, bottles, and potions. Vile, rotten, emotionless vultures. Ropes on the culture. Soaking the sculpture in blood from the throat of the sculptor. That's why we suffer for art. But this road that we paved is a wonderful art. When the tide changing, minds raising, find patience. Light rays of night change, the night's blazing. Quite strange, the night rays of light faces that work with the demons in the shadows of divine places. In my marrow is the marrow of divine ancients. We all have our own. We all have our way. If you know yourself, then your path will appear me a moment's away. Yeah. We all. And some a jump up inna the jiggy jiggy, jump up inna the blender. And a mix up like a pumpkin in a blender. System of the city got the country a surrender. But control is only a pretender. Have to make your part, make your charge like the Hulk in the Avenger. Bust down every bump in your adventure, remember. You are the master of your universe. Nobody could ever stop you or make you reverse. Mr. Babylon have we met before, this how we intro. If you not let we in through the door, we busting through your window. Find a way to remind you the roles that you play that define you. We all have our own. We all have our way. If you know yourself then your path will appear me a moment's away. We all have our own. We all have our way. There's something strong but little like you do every day. From top the mirror you can lie to yourself. If I go tomorrow, if you want be someone else, I feel move like a warrior through the stars of date. Not gonna feel no leisure, man, I saw progress. And never let them system bind you down. Never let them business sail the frown. No, no, we are the lion, name a liar in a Babylon kingdom. Yo. Thank you. grande Ilario, Bombo Selection, due tra i miei artisti preferiti in assoluto. Mo Calamity, Naman, o meglio Naman sta prima. Questa è Mo Calamity Evolution. Ultima tune per Ilario, poi DJ Smash già pronto sulla testa. Finisce anche la selezione di Ilario per questa settimana. Bless up, davvero bomba selezione come tutte le settimane. Bravo Ilario. Tanto non scappi, la settimana prossima la famo in diretta. De qua, pronto, DJ Smash. Questo è Port Royal, tutti i mercoledì. Original Danger Zone. Original Danger Zone. Home, that is not a place for me. That's not where I want. Gentlemen, DJ Smash, Pondi Control, Tauli, Pondi Mike, Firebomb, Babylon in Session. Home, that is not a place for me. Not a place for gentlemen. That's not where I wanna be. I wanna be in a dance where the birds them singing. Not in a the city where the bells keep ringing. Much gunshot and senseless killing. Feed the color of the dollar and the shaking and the chilling as you take a bus ahead. La settimana prossima sempre di Zeno FM. Cambia leggermente il nome. I Toscani hanno devastato questo paese. Noi ripartiamo dal latino. Pirate Web Radio. That is not a place for me. Nuovo canale H24. Yo, a Gunman City, Gunman Town. No, no. I'm a casino employment now. No. Mama, she a brown, daddy, my brown. You the wild boat, tell them a quick fee, go no down. Yo. Tutti i nostri mix, tutti i mix degli amici, tutte le canzoni di Red, Golden, Green passate fino adesso in Heavy Rotation H24. Sul link che vi daremo nei prossimi giorni. When I know racism, man of classism. When I know this schism, the media with the ism. When I use the come up, yow, yow, yow, you feel feeling. And nobody killing. Se siamo fatti la radio. I'm living in a dangerous zone. Dangerous zone. What a place to call home. That is not a place for me. Not a place for Julia. That's not where not I want to be. I used to wake up in the morning, tell my neighbor. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, cause I just summer grow. And my favorite thing in bring for me is avocado. Avocado, my love the avocado. Avocado, my love the avocado. Avocado, my love the avocado. Avocado, my love the avocado. And when the pear not in the season, still in no when my wall. The steam up with the shell them on the open fire. And everything me need, you know my king deliver. The hype, my affection with the sweet collie draw. Sweet collie draw, my love the sweet collie draw. Sweet collie draw, my love the sweet collie draw. Sweet collie draw, my love the sweet collie draw. Sweet collie draw, my love the him riding on the bike to bring the good luck to me. Nothing too high, just 150. Him used to be a soldier, so him built properly. But treat my little body with the right remedy. Right remedy, him have the right remedy. Right remedy, him have the right remedy. Right remedy, him have the right remedy. A proposito, vedi che mi ha ricordato DJ Smash questo pezzo, questa tune. Janine. Domani in session con Nino, DJ Priestess, solo io, ma giovedì prossimo, giovedì 27, allo Zobar, Jalesian Jungle Massive, Miss Barbara, B-Ranks, Golden Q. È uno showcase hip hop che è imperdibile. Ricordiamo che dal giovedì alla domenica lo Zobar è aperto, sempre ingresso gratuito, il bel giardino. E soprattutto che venerdì mi faccio il vaccino. Sono battute per i più studiati queste, eh? Government said them a govern. Them take every dime and them take every nickel. You don't make no sense and them so on. It's like them a block we up until we cripple. Well, we them a walk on and run on. But tell them with all our all we little warrior. While them a warrior, watch me go hurry and lead out the inner strength. Bear dead body up while youths getting wild and losing them inner strength. Years of them love up the nine and clock for ten and drop boy 11. Qualcuno farà sicuramente del victimismo quando annunceremo il 4 giugno la nostra nuova yard, il pezzo del tropico dentro a un parco a 2 minuti da raccordo. Stay tuned. While dashing out, sky splashing out, but grass is out for peace. Oh yes, I'm standing up to free the beefs that under run for me. Coming to Rasta and all the low, cause I plan to go for these goals like cannabis. Oh yeah. Them say no child the police with them big thing. I said we better watch out for shit like the Simpsons. Cause you deep on gunning, I keep on coming. Up with plus for the feet, all the way that running. Cops on we heels on feet start burning. Watch someone sweep for the beast, plans them a free for the week. Like when police them catch the capes with a seat from a weed and them wheel and done it. I am here burning them lock up my mic when you and keep on drumming. I'm just dead, got keep on drumming. For the weed and what a green long demand. That's coming. Shoot me down before a witness. Quick, quick, quick, quick, drip, drip. I hit this. And I see the man when carry it. Well, them work we up, but not for fitness. Seems like them business more about them business than for your flip. The suffering history, fairy tale life. Easy while listening. Well, I'm gonna fit this description. Royal regime in a his kingdom, the mystic one. Stefan go kick them down when time and go mix this up. Yeah. can't stop Rastafari, no. If them never know, if them never know. Promote the eyes of level. So we just burn them evil concept. Go, we say death is a destruction to the humanity. That's what me I say. Let them know. What do you want to know now? Hey, check this, check. Jaja City, Jaja Town, them want fi turn it in a cowboy town. Aye, when you look and know. Jaja City, Jaja Town, them want fi turn it in a dead man town. Aye, when you look and know. It's a drunk on chalk of John Brown. We now want no more than the inner town. Miss a happy gossip, lucky trigger happy out. We now want no more dead body. Well, Miss a Joe kill quick. We now want no more hit. We now want no more grave. We now want no more casket. Well, life we promote, which is righteousness. Saddam get a lick. We now look and know. Judge a city, judge a town. Them want to turn it in a cold white town. Aye, we now look and know. Bloody city, bloody town. Or turn it in a rude white town. Aye, we now look and know. Them a tell me how them call. Big 45 we shoot out them brother mole. No faster them cold like up at the North Pole. So them shoot down the young, shoot down the old, shoot down the puss and all the dog and the foal. Every weekend them take our next payroll. Out of man pocket them shoot out Bill Fall. This Marcus Garvey yeah, no feather figure roll. Look you know. Judge a city, judge a town. Them have it on it in a cowboy town. Aye, when you look and know. Judge a city, judge a town. Them have it on it in a dead man town. Aye, them think them reach the ultimate. Yo, but them no reach nowhere yet. Aye, them get caught in a internet. Of society, I tell me them a intellect. Them promote too much debt. When you look and know. Provided for I and I. I. They don't want you to know marijuana. Video smash ai controlli, tavoli pondi mic, Port Royal, pirate web radio. La settimana prossima follow the link, follow the vibe. Sembra ma non è. Herb smoke, keep eye sane, take my pain, stop my grain, so much I gain, so I blame. I change, I might bring the right strain to my brain, fetch up lightning like I Wayne. Come and day up on the lava grown, and if them soft like a guava, them can't come round this part of town. Telling you the thought alone, I could have sparta, it falter down. Revival, hallelujah, it start up now. Reprisal, for the luja, it water down, a pardon no. But they in a me garden strong. This is not a marijuana song. Cause they don't want you to know marijuana. I'd so and be free. Just so let it be. They don't want you to know marijuana. I'd so and be free. Just so let it be. This is not marijuana music. Just a message from the ones that use it. Don't abuse it. Has a mind that fertile. Bring forth something that worthwhile. Know your worth, child. Cause no officer alive could a look in my eyes and see what I prophesize. My mind it forever occupies. Thoughts of whole my talk as spice amongst us. Here trouble for my trouble, me. Then my chalice I go bubbly. Drop in a one load then double it. Power day in a me garden strong. This is not a marijuana song. Cause they don't want you to know marijuana. Hey, Sarah Luga in the place. Brought a jade upon the case. Hey, I see you looking my way every day now. Dubwise version. Protege. I see you in my dreams, I wanna get to know you. Sara Lugo. Trying to find the light, stretching out their limbs to the sun. Guide them right, help them keep their life on track. Watch over like a satellite. Tell them when to stop and go, like a traffic light. Many obstacles to overcome in the city life. Making sure they stay pure, teach them what's wrong from right. Seed brings forth new life. Yeah. Smoke the weed every day. Don't smoke the seed, no way. Smoke the weed. Hey, smoke the weed. Stay around 6 a.m. in the morning, when me just wake up. Stick the paper, kiss me darling. The bag hurt me break up. How they ma fight the herb, me can't stand it. Me a sow the seed, Babylon can't come step on it. Me a mix the weed with all the Grey Goose and Tannic. Sono tutti amici, sono Bulla di Africa Unite. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Fort Royal e Fire from Babylon. Se state sintonizzati, seguite programmi come questo, supportate la reggae music. Yes, I! Buona senso! Wiki! What we are preferred, them a juggle it on the street curb, and the youth a say weed is life, weed is reality. Feel free to get lifted, you know. Young people are gifted. Yeah. And as we gather to take part in this ancient tradition. Different style. Whoa, chalice full of water, ashes in the sea. Zugu light the matches, but the stash in a kochi. Lucky say me have it, so as the chop and rip. Chucky say him a bit, him we go for cause of me. Nothing and the duffel have it, stuff you should have seen. Rough up on the government, free up economy. Make them know say it's a carry healing property. Stack the tree on top of tree and sip it like a cup of tea. I can remember how them puffy bunny lay. Doggy dread him set it, yeah, him a did one of them. Bossa did a calling, now a kusha does the same. And when time Sunday morning come and one thing a remain, say hey. Yes, it's bubbling, good Lord, it's bubbling. And the back way pretty the Mona Lisa. Fresh up out the freezer. Love it when it keeps up. Any politician say I could have Annalisa. Slave owner law. Come tell me you no see it. So get up out your seat and do something up for the people. Stand up and them gang up in the wrong under the steeple. Mineral me creep to strictly river water. Stash it in a charter. Be bunny with me father. He wear the brata. Nothing no change at all. Him tell me from the start, so me know the world is small. I can remember the days of Taylor Hall, me, him and Damian Crawford. Them time the challenge is to presence of the love maker. Life is in the words of the comforter. endure much longer, live much longer. Fear is in the eyes of the beholder, and love is in the presence of the lovemaker. Life is in the words of the comforter. Endure much longer, live much longer. Careful how you enter to a stranger. Selassie never born in a manger, and never crucify as no savior. He let off himself from all the ruler. I test the rules. Tell her try your best just to make it quick. Woman, tend to the sick. There must be something she can do. This heart is broken in two. Tell her it's a case of emergency. There's a patient by the name of Gregory. Night nurse, only you alone can setters. My night nurse. Oh gosh. Oh, the pain is getting worse. I don't wanna see no doc. I need attendance from my nurse around the clock. Cause there's no prescription for me. She's the one, the only remedy. Night nurse, only you alone can quench the shatters. June per DJ Smash, arrivato un pochetto, un paio di pezzi per me e poi chiudiamo. Tutti i mercoledì Port Royal dalle 21 più o meno alle 23, non saranno mai le 23. Always carry you. Zusa Baza. Faccio tutto il giorno, bacio niente fuori da casa, bacio fuori da cava. Faccio Zusa Baza, bacio tutto il giorno, bacio niente fuori da casa, bacio fuori da cava. Faccio Zusa Baza, bacio tutto il giorno, bacio niente fuori da casa, bacio fuori da cava. Faccio Zusa Baza, bacio tutto il giorno, bacio niente fuori da casa. Senta! A c'è calo ma conosciuto ancora non ci sapa. Caso curioso e caso strano. C'è perché la cosa brutta tutta la volta mancana. Sì, usan calo che mancano. Zumba tanto danno e poi ci chiede la mano. E ma faccia buca batana. Bacio ma bacio veramente. Da quando vai vicino che cuscia mano ma da vetta. Niente mancano oppure mezza strada. Con l'amico oppure su Fido Guido. Ultima c'è un per smash. Da mocca bacio veramente non ha capo. A proposito di Fido Guido, vi ricordiamo domani ancora lo Zoo Bar insieme a DJ Priest. Music. Dalle 18 alle 21, 21 e 30 ci trovate là, me a Mino a far girarci una rotazione. Ti dico faccia chiusa prima e non ha avuto niente di pregiudizio e divisione. Sulla cesta munita cancia ma situazione. Rozza sound, me la calore e fuoco. Faccia veramente non è scega. Faccia, faccia su sa basa. Faccia tutto il giorno, faccia niente fuori da casa. Faccia fuori da capa. Faccia su sa basa. Faccia tutto il giorno, faccia fino a noi, non viene dalle stelle. Gli amici di Sonica, il maestro Battiato, ultime due tre tune per me e poi tutti a nanna e ci vediamo domani allo zoo. Se esistono carnefici, se esiste l'imbecillità, se le panchine sono piene di gente che sta male. Che credo che sia il vero grande merito di questa fiction, perché non ci sono i toscani, capisci? Cioè nessuno che dice la mia mamma e il mio babbo passami la carne, la carta, eh? Perché con quella C aspirata e quel senso dell'umorismo da quattro soldi i toscani hanno devastato questo paese e questo lo devi scrivere, per favore, scrivi. Chi credete che noi siamo per i capelli che portiamo? Noi siamo delle lucciole che stanno nelle tenebre. E credo che sia il vero grande merito di questa fiction, è che non ci sono i toscani, capisci? Cioè nessuno che dice la mia mamma e il mio babbo passami la carne, la carta, eh? Perché con quella C aspirata e quel senso dell'umorismo da quattro soldi i toscani hanno devastato questo paese e questo lo devi scrivere, per favore, scrivi. È giunto fino a noi, carico di menzogne. Mandiamoli in pensione, i direttori artistici, gli addetti alla cultura. E non è colpa mia se esistono spettacoli con fumi e raggi laser. Se le pedane sono piene di scemi che si muovono. I'll bet just to arms. La musica contemporanea mi butta giù, mi butta giù. I'm bad just to arms. I'm la musica contemporanea mi butta giù. Ultime 10 tune e poi andiamo a chiudere la puntata più onda rossosa di tutta la storia di questa prima stagione di Port Royal Fire from Babylon, tutti i mercoledì dalle 21 alle 23, Zeno FM come piattaforma Pirate Web Radio dalla settimana prossima. A proposito dei patrioti che imbracciano le armi, il pensiero in questi giorni non può che correre alla Palestina e a quello che l'oppressore sionista sta facendo. Questa canzone è una preghiera universale. Che ognuno possa essere libero su questa terra. Che ognuno possa avere la propria terra. Che ognuno possa tenerla, coltivarla, senza paura che da un giorno all'altro te vanno caccia via. La propria casa, il proprio spazio. E chi se vuole andare a cercare fortuna altrove, che sia ben accetto. Penultima giunta e poi tutti a nanna. Port Royal, Fire Bomb Babylon, tutti i mercoledì, Alfa Blondi. Salam, shalom, salam aleikum. You can see Christians, Jews and Muslims living together and praying, amen. Let's give thanks and praises. Baruch atah Adonai. Baruch haba Yerushalayim. Baruch ata Adonai. Baruch haba Yerushalayim. Jerusalem, Irahim. Thank you. Bible to the Quran. Revelation time. Shalom. Salam alaikum. You can see Christians, Jews and Muslims living together and praying. Amen. Let's give thanks and praises. Adonai. Baruch Abba Yerushalayim. Baruch Ata Adonai. Baruch Abba Yerushalayim. Jerusalem, here I am. Due popoli, uno legittimo, uno boh. Israele Yakirati. E residerebbero di spazio proprio, magari uno in Arkansas e l'altro lì dove sono nati. Il prossimo è l'ultimo pezzo. Vediamo la buonanotte. Heartbeat Movement. A breve Mistilla ce lo manderà sta da plate che avanza da 2 anni, eh? Non vi preoccupate. 70 BPM. Reggae presa bene. Force Royale, Fire upon Babylon, tutti i mercoledì. Sunflowers blossom in searching for a new light. Reed dances on a causal wind. Water shapes itself to go on its flow. Milaka water, Milaka reed, Milaka sunflower, me won't proceed. Here and now, there's a pure light within you. And you can't stop me now, you can bring me down. All your poison arrows don't hurt my road. That's my life, I am the master of my life. And we tutte e a tutti, questa era l'ultima puntata di Port Royal su Spirit Web Radio. Ringraziamo la radio di Pistoia per, boh, non lo so per cosa ringraziare. La settimana prossima, nuovo link, Zeno FM, Pirate Web, anzi Pirate. Però c'è un'altra cosa che voglio dirti, che credo che sia il vero grande merito di questa fiction, è che non ci sono i toscani, capito? capisci? Cioè nessuno che dice la mia mamma, il mio babbo, passami la carne, la carta, eh? Perché con quella C aspirata e quel senso dell'umorismo da quattro soldi i toscani hanno devastato questo paese, e questo lo devi scrivere, per favore, scrivilo. Scrivetelo questo. Ci sentiamo settimana prossima. A tutti gli aficionados daremo un nuovo link nei prossimi giorni, creeremo la pagina e tutti i contatti per poter essere un pochino più connessi con noi, in attesa di tutte le novità che arriveranno da settembre in poi. State connessi, ci vediamo domani allo Zobar, sabato ad Anzio e soprattutto domenica a Perugia. Dategli forte, bless up yourself.